Continuiamo allora questa nostra puntata perché, come al solito, insomma, abbiamo delle interviste da raccontarvi e oggi abbiamo deciso di intervistare un duo che, vabbè, è presente solo a metà adesso al telefono con noi, che ci è piaciuto moltissimo e che è uscito da pochissimo con un nuovo album. Allora, con noi al telefono c'è Cipo di Cecco e Cipo. Ciao a tutti, ciao. Benvenuto su Radio Città Fujiko. Con permesso, intanto. Con permesso, con permesso. Allora, facciamo già le gag, cerchiamo di essere simpatici come voi, ma è molto difficile perché c'è da dire che effettivamente avete conquistato tutti con una simpatia veramente spropositata, tenderei a definirla. Comunque, molto molto divertente, insomma. Poi la musica invece parallelamente ha continuato ad andare avanti ed è arrivato questo album, Con permesso, che è uscito appunto pochissimo tempo fa, giusto? Il 21 gennaio, sì. Io ti chiederei intanto se c'è qualche gag legata a questo titolo, Con permesso, oppure che cosa significa? Ma in realtà potrebbe sembrare un titolo, sì, un invito con permesso, un invito timido, no? ed educato. In realtà potrebbe essere anche, anzi lo è un po' un titolo, diciamo, un po' provocatorio, anche un pochino arrogante, no? Forse per dire fermi tutti, fermi un attimo, adesso ci sono Cecco e Cipo, con permesso. Ah, ok, quindi non con permesso detto col tono timido, ma con permesso, cioè adesso ci ascoltate a noi, tipo così. Esatto, esatto, esatto. Ah, ok, abbiamo capito allora. Voi in questo nuovo album, Con permesso appunto, parlate dell'amore principalmente, è un po' il tema che romantici. Non solo romantici. Non solo, ecco, romantici, non no. Proprio, perché sono 10 tracce che raccontano l'amore in varie sfaccettature, l'amore per varie persone, varie cose, anche l'affetto in generale. Quindi ti chiedo, Cipo, domanda difficile, cos'è per te o per voi l'amore e come lo raccontate all'interno di questo disco? Tra l'altro giocatela bene che fra un po' è San Valentino, magari. No, allora, l'amore sì, il filo conduttore è l'amore. Abbiamo provato a non parlare d'amore anche a questo, in questo disco, ma in realtà anche in questo disco parliamo d'amore. Io riesco solamente a parlare d'amore, cerco per fortuna riesco a parlare anche di altro. Però sì, l'amore è in varie sfaccettature, si parla di momenti, si parla di emozioni, si parla, è un disco molto, diciamo, anche introverso, ma l'amore è legato a tantissime cose, c'è l'amore per la nostra terra, che è la Toscana, e si parla tanto di Firenze, di situazioni vissute a Firenze, a Vinci, si parla di animali, si parla di attualità, si parla anche proprio dell'essere umano e si parla... Basta, di questo, si parla di animali, gli animali non mancano mai, perché c'è, cioè, che ci amano tantissimo gli animali, si parla tantissimo di animali. Ma a proposito, come nascono le vostre canzoni? Cioè, vivete in una fattoria? Cioè, c'è qualcosa che vi lega agli animali, l'amore? Cioè, vorrei capire. Vabbè, sì, abbiamo sempre avuto tantissimi animali domestici, mettiamola così, e soprattutto dei cani, che ci hanno sempre accompagnato nelle nostre passeggiate pomeridiane, che... diciamo, sono sempre servite a prendere spunto anche per le canzoni, perché è il momento in cui ci sentiamo un attimino più liberi, ma in realtà è quando stiamo fantasticando e riflettendo sui pezzi da comporre. Ok, tra l'altro, sempre parlando di animali, voi avete avuto un po', diciamo, il boom, chiamiamolo così, nel 2014 con la partecipazione X Factor con Vacca Boia, che era un brano bellissimo, insomma, dall'ironia molto forte. Diciamo, X Factor avete spaccato, si può dire spaccato? Penso che si possa. Si può dire. Con un brano appunto molto ironico, ai limiti dell'assurdo, comunque diciamo tendente alla musica demenziale nella migliore delle sfaccettature. Ecco, vi riconoscete ancora in quel tipo di narrazione, quindi come duo ironico, abbastanza tendente all'assurdo, o nel frattempo siete cambiati completamente magari? Allora, siamo cresciuti e invecchiati, la verità è questa, e con noi anche le nostre canzoni. Quello lì è, diciamo, quella è l'immagine che rappresenta più di tutti Cecco e Cipo. Però ecco, oggi siamo un po' cambiati, perché non ci sentiamo, non riusciamo più a fare dei pezzi come Vacca Boia, per esempio. Siamo più, diciamo, vediamo l'amore con occhi diversi, cerchiamo di descriverlo in maniera diversa, in maniera un pochino più seria. Prima parlavamo tantissimo di pesciolini, di piedine, adesso cerchiamo di parlare d'amore in maniera un po' diversa, ecco. E comunque cerchiamo di mantenere sempre la sottile ironia che ci caratterizza da sempre, in realtà, perché è anche un po' il nostro punto di forza, però cerchiamo comunque di dare sempre un significato profondo alle canzoni, anche se con ironia. Perfetto, beh, insomma, poi comunque si sente ancora un po' di ironia, si può dire. Ma a ma proposito... Sì, ma c'è anche dell'assurdo, manteniamo comunque sempre quella parte lì, anche il disco nuovo, comunque ci sono dei brani che magari sono un pochino più seri, spero che arrivino, ma ci sono anche dei brani folli e assurdi, ecco. Beh, allora facciamo così, ti faccio una proposta, adesso ci sentiamo un pezzo e poi dopo, quando torniamo, parliamo un po' del significato anche delle canzoni un po' più serie, cosa ne dici? Ok. Allora, su tuo suggerimento... c'è una storia con due eschimesi? Ho capito bene? C'è una storia con due eschimesi, ecco, proprio se vogliamo parlare di assurdo, quello è forse una delle canzoni più assurde del disco, che si chiama Due eschimesi dell'isola di Baffin. Perfetto, allora l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare del nostro disco. Okay. Eccoci qua, rientrati da I due eschimesi dell'isola di Baffin, questo uno dei brani più assurdi del nuovo album. Siamo sempre al telefono con Cipo, di Cecco e Cipo, per raccontare, con permesso, il loro nuovo album, che non è nostro, ma è il loro quinto album. Però se noi l'ascoltiamo diventa e lo compriamo, è il nostro album. Tipo, no? Vero, esatto, anche questo. Esatto. Allora, diciamo che voi appunto fate sempre molta ironia e quindi avete appunto queste tematiche anche portate un po' all'assurdo, però ci sono, anche nell'ironia generale, ci sono dietro dei messaggi, delle morali. E quali sono un po' questi messaggi o queste morali, se ci sono, secondo voi, che ci sono nelle 10 tracce di questo album? Ma in realtà cerchiamo semplicemente di ci sono tanti significati, ci sono tante canzoni che parlano di cose diverse, di tematiche diverse, e il filo conduttore rimane comunque sempre l'amore. La verità è che esprimiamo semplicemente i nostri sentimenti, le nostre emozioni, che ecco, insomma, sono comunque cose sentite, che vengono dal profondo, anche se cerchiamo di raccontarle a volte in maniera un pochino più ironica, si cerca sempre di inserirci dentro anche insomma, la verità, la sincerità che scaturiscono queste cose. Cerchiamo, non riusciamo, diciamo, né a mentire né a dire cose che non sono nostre e che non viviamo. Quindi ecco, secondo me è un po'... C'è un po' di tutto, la verità si trova secondo me ascoltando i pezzi, magari alcune arrivano meno, alcune arrivano di più, però ecco, anche nei brani più assurdi comunque si parla a volte d'amore in una maniera un pochino più profonda, anche nei due eschimesi dell'isola di Baffin, appunto, che è un pezzo completamente folle, che è nato prima il titolo e poi il pezzo, perché non sapevo di cosa parlare e lo canto, che non so cosa dire, e nel ritornello me la faccio prendere bene, però poi alla fine sotto c'è una storia d'amore, che sono questi due eschimesi, che non siamo io e Cecco, ma è un uomo e una donna, che sono due eschimesi, che comunque è una storia d'amore sofferta, è una fuga, diciamo, è un amore perduto, ecco, mettiamola così. Beh, fantastico, anche questa genesi di questo pezzo è molto interessante, comunque, partire dal titolo per arrivare a una storia. Sì, di solito non faccio così, però per quel brano lì volevo parlare di quest'isola di Baffin, che conoscevo solo per nome e guarda caso ci vivono davvero gli eschimesi, e quindi ho colto l'attimo. Hai avuto una botta di culo, si può dire, no? Cioè, sì. No, però a proposito della creazione delle canzoni, hai detto che appunto in questo caso hai fatto questo percorso, no? Un po' contrario a quello che fai di solito. Come nascono le vostre canzoni invece normalmente? Ma solitamente prendiamo la chitarra e ci lasciamo abbindolare, accompagnare, è la musica che suggerisce di solito la tematica. A volte parto da un argomento, da un'idea di testo, però in realtà la maggior parte delle volte è quando mi blocco lì, invece quando prendo la chitarra, così anche per scherzo, lì mi parte la melodia e da una parola poi nasce il pezzo. Se il pezzo viene in 5 minuti, bene, tutti contenti. Se ci perdo più di un'ora, vuol dire che non è il momento giusto. E le canzoni di quest'album sono nate, cioè ci sono state alcune canzoni che non sono fiorite, diciamo, le avete dovute lasciare da parte, o tutto quello che sentiamo, appunto queste tracce, sono state buone alla prima? No, queste 10 tracce vengono da una scrematura in realtà di 30 brani che avevamo pronti, perché diciamo negli ultimi 2 anni abbiamo avuto molto tempo per scrivere, quindi ci siamo dedicati molto alla scrittura. E questi brani. Qual era la domanda che mi ha domandato? Ti chiedevo se... no, sì, mi hai già risposto, perché ti avevo chiesto se erano brani che erano tutti, insomma, nati e cresciuti e inseriti direttamente nel disco, se c'era stato qualcosa che... Sì, sì, quindi hai già fatto, complimenti. No, vabbè. No, comunque sì, sono tutti pezzi nati molto di getto, molto di getto. Poi ovviamente ci abbiamo rimesso mano nelle strutture, nella preproduzione con il nostro chitarrista che ci ha dato una grande mano, però ecco, sono tutti brani nati molto di getto. Diciamo, a questo giro abbiamo lavorato un po' di più sulla struttura, sugli accordi, sui cambi, perché volevamo un attimino... cambiare, ecco, abbiamo sperimentato anche un po' di cose, ci sono un po' di riferimenti a volte anche un pochino jazz, e ci faceva perderci tempo, però ecco, in realtà sono tutti i pezzi scritti di getto. Fantastico. A proposito di questi 2 anni in cui avete avuto, come tanti, tempo in più, tempo nuovo che non c'era per scrivere, è stato anche un periodo senza possibilità di fare dei live, o comunque piccoli, con difficoltà, con tutto quello che è rimandare, spostare, eccetera, eccetera. Pare che si ripartirà. Voi avete delle novità in proposito? Avete qualcosa in programma per il prossimo futuro? Sì, la speranza, abbiamo fatto uscire il disco adesso perché la speranza è quella di ripartire a suonare quest'anno. Doveva uscire, il disco è pronto dall'anno scorso, doveva uscire l'anno scorso, poi abbiamo aspettato perché non volevamo bruciarci il disco senza poter suonare, ecco. Quindi siamo qui in trepida attesa, stiamo aspettando il booking che ci dia delle buone notizie per quando si possa ripartire con i club, per cercare di fare almeno una mandata di club invernale e poi fare l'estivo. Il tour sì, è in costruzione, anche perché noi se non siamo un gruppo principalmente live, se non suoniamo il disco arriva con molta fatica, quindi puntiamo molto sui live e poi ci manca tantissimo. Vabbè, male che vada ci sono sempre i balconi, fra un po' inizia a venire più caldo, no? Tanto ormai l'abbiamo fatto. Ma speriamo no. No, esatto. Sto scherzando ovviamente, era così. Oggi proprio, un'ironia oggi, mamma mia. Comunque detto questo, scusami, è una giornata così, ma è stato molto bello invece fare questa chiacchierata con te, quindi ti ringrazio per insomma, averci raccontato quest'album. Ricordiamo che è uscito il 21 gennaio, con permesso. Giusto. Di Cecco e Cipo, assolutamente. E ti chiederei allora se vuoi dirci qual è la canzone che hai scelto per chiudere l'intervista e se anche vuoi dire qualcosa alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Fucico. Allora, la canzone che scelgo Meteora, che secondo me è il pezzo che tira un po' di più, che fa ballare, più pop e più radiofonico forse, spero, che mi piace molto. E agli ascoltatori di Radio Fucico dico statemi bene. È stato un piacere, mi raccomando, ascoltate il disco di Cecco e Cipo perché molto probabilmente è il disco dell'anno. Grande! Fantastico! Okay. Grazie mille per questa chiacchierata. Allora, in bocca al lupo per tutto, si può dire o porta sfiga? Credo si possa. Si può dire. Ok, allora in bocca al lupo per tutto. Grazie mille.